Rock FM. Pane, burro, rock and roll. 7:30 minuti primi. Questa è la nostra colazione. Alleluia, fratelli! The Band! Guardate là fuori una luce. The Band! E non è lampione crepuscolare. Potete vederla anche voi la luce. Do you see it? Sì che la vedo! Yes! Quella là! Have you seen it? Diglielo! Yes! Eccolo! Yes! Jesus! It's God Christ! E la luce la vede anche Cristian, l'edicolante di Cologno. Che cosa volevi sapere? Tu non vuoi, cioè, vuoi una patente da vero rocker e non puoi venire a una nostra serata? Ma no, vai che ce la farai prima o poi. Ce n'è una il 1° di marzo, in questi giorni vi faccio sapere meglio, qui a Milano. Però grazie per la chiusa, i gelati io li prendo solo in cono, sono buono, sono buono. Ho trovato il giusto tono, sono buono, sono buono. La luce la vede anche il cowboy Ezio, che torna dai suoi cavalli. E Irina da Genova, doppia strombazzata, esame di chimica e domani economia e gestione sanitaria. Mamma mia, facci sapere. Strombazzata da Ale Gianni, no, ne ho cancellato uno, mannaggia. Saluti al Puggio, saluti agli amici dell'Osborne1.it. L'ho letto bene? Saluti a Chris, Gasoline Band, da Carpi. Con suo marito suonano i Lynyrd Skynyrd da 30 anni, con altri 5 pazzi scatenati, forte. Anch'io compio gli anni, scrive un altro. Vabbè, confesso, non è vero, ma è che non ho mai avuto una strombazzata tutta per me. Medaglia, medaglia, medaglia, medaglia. Tienitela anche per te, c'è. Invece non strombazziamo per Brutus. A fricche, sei meglio de Benigni con le quartine. Meglio i quartini, però. A quest'ora state attenti, ragazzi, vi raccomando. Qualcuno si iscrive al provino per diventare musicista rock con la bocca? Attenzione, perché nella seconda mezz'ora di quest'oggi, replica dell'appuntamento di Zorrock, puntata numero 2. Da non perdere! Fa festa con i Cure adesso invece. Why can I be you? I rullantoni dei Cure mi hanno sempre fatto spezzare. Forti, no? Tan tan tan tan tan tarara. Mi sto cervellando in questi giorni, perché anche ai Cure dobbiamo combinarne qualcuna delle nostre. No, non mi è ancora venuto in mente niente. Secondo te, Garavelli, come li possiamo fare i Cure? Col Cazù. No, il Cazù ormai sono gli Zeppelin, non si tocca. Anzi, col Cazù stavamo pensando adesso di aprire una rubrica classici del rock col Cazù. Direi vestiti di nero, tristi. Sì. Con il gel con i capelli sparati, esatto, in aria. No, ma con che strumento li suoni? Secondo me i Cure dovrebbero essere suonati con qualcosa tipo le lingue di Menelik. Guarda che le trombette le hanno usate solo in quel periodo. No, appunto, però visto che hanno quell'atmosfera triste, noi per contrasto le facciamo con le lingue di Menelik. Solo che le lingue di Menelik non si possono armonizzare, cioè fanno un suono solo. Fai te. Va bene, ci penserò. Grazie comunque. Buona giornata, caro Marco. Niente Zorro. Qui continuano ad arrivare messaggi per quanto riguarda Zorro. Tra poco mando la replica della seconda puntata. E ci fermiamo lì. No, però allora non volevo dirlo adesso, ma lo dico. Perché io non capisco come sia uscita questa cosa. Perché io non l'ho mai detta. E tu dici che non l'hai detta neanche tu. Ma continuano a scrivere di questa possibilità che Zorro, l'attore di Zorro, possa essere sostituito con Mox Cristadoro, che non, cioè, non capisco. È il Sergio Banderas della situazione. Ho capito, ma da dove salta fuori sta cosa? Per Mox ne abbiamo già in mente un'altra che faremo, ma non possiamo sostituire. No, Zorro che è Don Marco della gara, basta, cioè, sì. Piuttosto non si fa più Zorro. Allora più Zorro. Ne parleremo, caro Garavelli, grazie comunque, buon proseguimento di giornata. Io avviso i nuovissimi radioascoltatori, quelli freschi. Questo è Rock FM, pane, burro, rock and roll, siamo fatti un po' così, ma lasciatevi andare. Scriveteci pure al 335-100-7777, maggior ragione se avete appena abbandonato qualche altra frequenza radiofonica per innamorarvi perdutamente di noi. Avete fatto bene? Questi sono i Pink Floyd, quindi una conferma dell'amore riposto in maniera positiva nei nostri confronti. Tra poco invece passeremo la nostra radionovela e probabilmente tornerete ad ascoltare la radio dalla quale arrivavate. Fa niente, è stato bello, breve ma intenso. Think you could tell heaven from hell, blue skies from pain. Can you tell a green field from a cold steel rail, a smile from a veil? Do you think you can tell? Cool. che ha solo con la bocca però, eh? Wish You Were Here, Pink Floyd, e prendiamo il vostro cuore di radioascoltatori e radioascoltatrici romantiche e lo strappiamo in mille pezzi. Arrivano proposte per i Cure, provate con lo xilofono, a saperlo suonare e ad avercelo uno xilofono, oppure con lo scacciapensieri. Ci abbiamo pensato anche lo scacciapensieri, caro Folle, ma è duro anche lui, cioè fa una nota sola lo scacciapensieri, due pie più. Non è malleabile come il casuo, ecco. Fate i Kiss con le pernacchie, ciao Uto. C'è poco da scherzare, perché anche lì ci arriviamo prima o poi. Allora, replica della seconda puntata di Zorro, forse anche l'ultima, la nostra radionovela. Non so se vi è mai capitato di sentirla, io la propongo anche a voi della seconda, della prima ora di diretta. È, insomma, una radionovela, le forze del male contro le forze del bene. Il male è interpretato da Roberto Fricantoni, che fa Carlos Frick Santana, cattivo dittatore. E il bene è Don Marco della Gara, che in realtà è uno pseudonimo, cioè ha uno pseudonimo che è Zorrock. Questa è la seconda puntata, gustatevela, potrebbe essere l'ultima. È l'alba di un nuovo giorno, le luci lentamente prendono il posto del buio e gli uccellini esprimono la gioia di una nuova avventura da vivere in pace ed armonia nella ridente cittadina di Sweet Home Alabama. Se non fosse che nel gelido castello del cattivo Frick Santana qualcuno sembra non essersi svegliato di buon umore. Rock, rock, solo a quella maledetta musica rock sanno pensare, ma io li odio e odio il rock, soprattutto odio la musica rock. Ma cosa ho fatto di male per meritarmi una popolazione di drogatelli come loro? Guarda, guardali come si vestono, quello sembra un barbone trovatello e quell'altro una checca, diciamolo, una checca con una sfrenata voglia di motocicletta. Ah, sì, ma non può andare avanti così. No, la situazione deve cambiare, quanto è vero che mi chiamo Frick Santana. Quale perfido piano starà escogitando la mente malata del nostro cattivo dittatore? Lo scopriremo subito nella seconda puntata di Rock. Mia amata popolazione di Sweet Home Alabama, quest'oggi il vostro stimatissimo Frick Santana, dittatore, per grazia di Dio e vostra volontà, ha deciso di farvi un graditissimo regalo. Riceverete in giornata un pacco contenente la vostra nuova divisa, una divisa che finalmente vi farà sentire belli. E basta dunque con quegli straccetti che indossavate, buoni solo a farvi sembrare dei barboni. Da oggi tutto risplenderà di nuovo. Indossatela e vi sentirete come nuovi. Ah, sì. Vi ricordo altresì che il prezzo della spedizione della divisa è a vostro carico e chiunque dovesse essere visto indossare un indumento diverso dalla divisa verrà, come posso dire, imprigionato. Si mette male per la libera popolazione di Sweet Home Alabama. Niente più vestiti colorati, niente più borchie, niente più toppe con i nomi delle band. Nel mentre, anche il nostro Don Marco della Gara riceve la nuova divisa, mentre è intento a giocare coi videogiochi. Porca paletta, beccati questa bomba nucleare all'idrogeno puro! Alieno ciuccia cervelli! Come dici, mio fedele servitore muto Bernardo? Una divisa nuova? E siamo obbligati a portarla? Ma c'è almeno qualche frangetta rock? Porca paletta, mi sento già triste in questa nuova divisa. Non può andare avanti così. Questo è un lavoro per Zorro. Nel mentre, il cattivo duo Freak Santana sembra proprio contento delle sue divise. Ah, finalmente un popolo come si deve. Vedrete che così lavorerete meglio, miei sudditi amatissimi. Sarete più produttivi. E se tutto va come deve andare, molto probabilmente tra qualche giorno, vedrete, vi sarete dimenticati anche di quell'orrenda musicaccia che osa malapena accettare. Il rock, insomma, quel genere di musica che vi sbombarda il cervello. Ma cos'è? Cos'è questo fastidioso rombo di motocicletta che sento in sottofondo? Sono io, malvagio Freak Santana, sono Zorrock! Guardalo, che carino, con la nostra nuova divisa. Certo che se non fosse per quella ridicola mascherina, sembreresti anche un bel ragazzo, caro il mio Zorrock. Maledetto Freak, ci hai omologati tutti quanti con questa tua nuova divisa. Se solo avessi una buona idea, maledetta divisa mi impedisce anche di avere delle buone idee rock. Come dici, mio fedele servitore muto Bernardo con la divisa? Strapparmi i pantaloni. Mettermi delle spille da balia sulla giacchetta? Hai ragione. Personalizzando la mia divisa, già mi sento meglio. Non è come indossare la maglietta degli Iron Maiden, ma è già qualcosa. Cosa combini, impertinente supereroe dei miei stivali? Come ti permetti di strappare così la mia meravigliosa divisa? E voi, maledetta manica di ignoranti, cosa fate? No, no, fermi! Non potete fare così! Non potete! Come dici? L'estrazione. Masturbazione? Emulazione. Sì, guarda, tutta la popolazione sta personalizzando le proprie divise. Grazie allo spirito di emulazione e alla sfrenata voglia di rock che alberga negli spiriti liberi della popolazione di Sweet Home Alabama, anche quest'oggi il nostro eroe ha salvato la situazione. Perché ricordate, quando c'è un pericolo, quando il rock sta soffrendo, quello è un lavoro per Zorrock. Questo programma, raga! energy. Concrete tube. Com'era il mercoledì, la meta è ancora lontana per arrivare al fine settimana? Sì, una roba così. Sì. Era l'ode di oggi. Infatti, per l'agognata fine settimana, il mercoledì ha una meta lontana, ma tu continua con l'apparente bislacco, ma fortissimo almanacco. I nati del giorno, in questo 13 mercoledì febbraio, nel 1903, nasceva George Simenon, scrittore belga. Esatto. Lo ricorda in qualcosa? Ma sì, era famoso autore di Maigret, l'ispettore di polizia più famoso, uno dei personaggi più famosi insieme a Sherlock Holmes. Sa che George Simenon, vedendo le registrazioni della TV italiana che riguardavano appunto Gino Cervi, interprete del commissario Maigret, ebbe a dichiarare che il suo Maigret era proprio quello di Gino Cervi, cioè l'interpretazione migliore a suo avviso era quella di Gino Cervi. Grande orgoglio alla italiano. Televisione e, come si può dire, allo spettacolo italiano. Mentre se le dico Peter Gabriel, cosa le viene in mente? Mi vengono in mente i Genesis, grande mito del progressive. Nasceva oggi, nel 1950, come anche Peter Hook, bassista inglese dei Joy Division, qualche anno la più tardi. La gioia divisa. Strani questi gruppi, no? Quel periodo dark, i Throbbing Crystal, no? I Joy Division erano furono gruppi stranissimi che vendettero milioni di copie pur essendo completamente inascoltabili. Nasceva nel 1956. Qualche anno più tardi, 1964, auguri a Rocco Tanica, tastierista italiano. Cosa fa? Tastierista degli Eghi e le Storie Tese. Cosa fai? Non era medaglia. Medaglia, invidio. Auguri, invidio. Rocco! Medaglia. Ce l'avrà la sua medaglia, freak. L'hanno fatto prima gli Schiantos, medaglia. L'avrà! Glielo prometto io. Ci conto. Deve. It's all the same.